gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2 si unirono compatti in fila per 6 con il resto di 2 con gatti allineati in fila per 6 con il resto di 2 le code attorcigliate in fila per 6 con il resto di 2 6 per 7 42 più 2 44. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti i gattini, un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone. 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2 si unirono compatti in fila per 6 con il resto di 2 coi passi allineati in fila per 6 con il resto di 2 le code attorcigliate in fila per 6 con il resto di 2 6 per 7 42 più 2 44. Quando alla fine della riunione fu definita la situazione, andò in giardino tutto il plotone di quei gattini senza padrone.